Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tornare in Italia non per lavoro ma per i propri figli. Oggi esploriamo una dimensione diversa all'interno del tradizionale appuntamento del primo sabato del mese con i nostri controesodati, giovani che rientrano dall'estero. Una dimensione familiare di recupero delle proprie origini e del proprio paese, anche senza reti o paracadute di rientro. Lo faremo con la storia di una giovane coppia rientrata da poco dalla Silicon Valley, dopo anni a stretto contatto con l'epicentro mondiale dell'innovazione. Una storia su cui riflettere quando parliamo di potenziale attrattivo dell'Italia. Continua la nostra iniziativa Giovani Talenti in Europa, che invierà 3 ascoltatori a Strasburgo, e torna anche l'appuntamento con l'Ideogramma, rubrica mensile sulle migliori opportunità in Estremo Oriente. E c'è anche la domanda del sabato oggi: meglio giocare a calcetto che mandare in giro curricula? Caro ministro Poletti, il problema non è prendere atto del malcostume italiano, il problema è avallarlo senza neppure provare a combatterlo. Giovani talenti. E la frase della settimana è copyright del presidente INPS Boeri. Tra il 2007 e il 2016 i lavoratori under 35 sono diminuiti di 2 milioni. È necessario intervenire al più presto sul problema giovani, dice. È intollerabile un tasso di disoccupazione pari al 40%, afferma Boeri, ribadendo la necessità di concentrare gli incentivi sui giovani piuttosto che sulle fasce più anziane, anche perché per il presidente INPS la disoccupazione giovanile è un fenomeno tutt'altro che inevitabile. Abbiamo bisogno di un mercato del lavoro e di un sistema di istruzione in grado di reagire a queste sfide. Su questo piano, denuncia Boeri, l'Italia è in ritardo. L'Italia ha purtroppo ancora poco attraente per gli investimenti esteri, che nel 2015 hanno rappresentato appena lo 0,7% del PIL contro una media europea del 2%. Attraiamo 13 miliardi di dollari rispetto alle oltre 50 di Gran Bretagna, 46 di Germania, 35 Francia, 25 Spagna. Una cifra che ci colloca al 36esimo posto per attrattività tra i 44 paesi più industrializzati, e quanto emerge da una ricerca di UHY. E a proposito di attrattività, quanto siamo attrattivi per i nostri controesodati? Almeno nella sfera tecnologica l'Italia è molto molto indietro, però stanno nascendo tante cose molto interessanti e quindi secondo me c'è la possibilità di avere un impatto in un ecosistema che sta proprio ai primi passi. Stefano Bernardi, 30 anni, è un venture capitalist rientrato con la moglie dalla California. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Focus sulla Brexit, che è scattato ufficialmente proprio questa settimana. Ricordiamo che in Gran Bretagna lavorano e studiano oltre 600.000 italiani, dei quali si stima più di 450.000 nella sola Londra. Si teme che per i connazionali studiare in Inghilterra possa diventare più costoso, a rischio anche i fondi per i nostri ricercatori. E si sente già l'effetto Brexit nei dati sul flusso migratorio in Gran Bretagna, diffusi dall'Ufficio Statistico Nazionale. Meno arrivi, almeno dai paesi dell'Europa occidentale, Italia inclusa, e più partenze. A bussare alle porte del Regno Unito sono stati 525.000 stranieri, dall'Unione Europea ne sono giunti 268.000, con un rallentamento dai paesi più grandi come Italia o Francia. E anche sul servizio sanitario britannico pende la tagliola post-Brexit. Secondo una ricerca della British Medical Association, 12.000 medici, il 40% dei dottori formati nello spazio economico europeo, stanno valutando l'eventualità di lasciare il Regno Unito alla luce dei risultati referendari. E come approfittare della Brexit rendendo Milano una città tra le più attrattive d'Europa? Se ne è parlato alla presentazione del Global Financial Centers Index, indice internazionale che quota i migliori centri finanziari al mondo. Ugo Poletti, direttore politico di Select Milano. Milano è già un polo di attrattività per talenti internazionali e per talenti italiani. Milano di fatto è una metropoli che si confronta già con città del mondo come New York, come Londra e come Parigi, e l'attrattività dei talenti è dovuta al fatto che è sicuramente la capitale finanziaria, economica e industriale del sud Europa e del Mediterraneo. Ha un polmone universitario che è la più grossa concentrazione, con un numero crescente di studenti internazionali, ed è attualmente una città lanciata su grandi ambizioni. In questo momento Milano può pensarsi e candidarsi a essere come la piccola Londra del continente europeo. Nell'ultimo trimestre 2016 l'offerta di posti di lavoro è leggermente aumentata nell'eurozona, 1,7%, lo indica Eurostat, leggero aumento anche in Italia, pur al di sotto della media, 0,6%. Torna il 4 aprile a Milano l'International Career Day, una giornata dedicata all'incontro tra studenti neolaureati e professionisti con aziende multinazionali, business school e organizzazioni globali. Particolarmente coinvolti i profili dell'area ingegneristica, economica e tecnico-scientifica. Tutte le info su internationalcareerday.it. Prosegue anche oggi l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 13 maggio e che da questa edizione vi chiede di raccontare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo 3 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovete avere tra i 18 e i 35 anni. E dovrete inviare da ora fino alla mezzanotte di venerdì prossimo una email a concorsoeuropa@radio24.it contenente un racconto di massimo 1500 caratteri, spazi inclusi. Raccontateci l'Europa che avete vissuto o che intendete vivere. Inviateci i vostri personali racconti sulle esperienze di studio, stage o lavoro nel vecchio continente. Raccontateci quanto vi hanno fatto crescere, quanto avete imparato, quanto avete potuto allargare i vostri orizzonti. E se invece dovete ancora fare esperienze di questo tipo, beh, allora raccontateci come ve l'immaginate un periodo di studio o lavoro in Europa e perché, soprattutto, vorreste farlo. Inviateci le vostre proposte coi dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e rilanciate l'iniziativa su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione però, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di venerdì e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave imprescindibile per poter partecipare. Quella di questa settimana è Europa 1, ripeto, Europa 1. I 3 racconti giudicati migliori si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo a ottobre. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani e Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info e i contatti e il regolamento su www.radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Italia per parlarvi di un controesodo molto particolare. Ci sono anche giovani professionisti che nella penisola tornano non per lavoro, ma per motivi soprattutto personali legati all'esigenza di far crescere qui i figli nati all'estero. Il problema è saperli trattenere, questi talenti rimpatriati. Nome: Stefano. Cognome: Bernardi. Età: 30. Città di origine: Roma. Studi: ingegneria informatica. Anno in cui sei tornato in Italia: 2016. Per andare dove? In Trentino, sul lago di Caldonazzo. Perché? Per la qualità della vita. Qual è il lavoro che svolgi attualmente? Investitore. Dove? In giro. Resterai? Probabilmente, non lo sappiamo. Siamo estremamente eccitati dall'idea di tornare in un ambiente tecnologico giovane ed emergente dove possiamo avere un impatto reale riportando indietro quanto appreso in Silicon Valley. Così scrivevi, Stefano, alla vigilia del vostro rientro in Italia. Che paese avete trovato ad accogliervi? Ma più o meno quello che abbiamo lasciato quando siamo partiti nel 2011. Diciamo che quello che scrivevo è vero, insomma, almeno nella sfera tecnologica l'Italia è molto molto indietro, però stanno nascendo tante cose molto interessanti e quindi per quello, secondo me, c'è la possibilità di avere un impatto in un ecosistema che sta proprio ai primi passi. Ecco. Ne approfitto anche per salutare Elena Petrucciano, moglie di Stefano. Buon pomeriggio, Elena. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Tra poco ritroveremo anche te. Torniamo da Stefano, però, con voi apriamo un capitolo nuovo a proposito di giovani che scelgono di tornare. Siete un esempio di giovani che hanno scelto di rientrare per scelta personale e familiare. Sotto questo profilo, l'Italia ha ancora una marcia in più e carte da giocarsi in termini di attrattività? Secondo me sì, soprattutto per chi è cresciuto in Italia ed in Europa. Insomma, noi da giovani, insomma, appena usciti dall'università avevamo voglia di andare all'estero, fare esperienze eccetera, però appena uno inizia ad avere una famiglia si rende conto di tutto il bene che c'è in Italia, quindi da quel punto di vista noi, insomma, abbiamo fatto tante classifiche di posti dove poter andare e l'Italia aveva sempre quelle 2 o 3 cose che erano, insomma, tanto interessanti, quindi abbiamo deciso di tornare qui. Cresci a Roma, studi ingegneria informatica, all'università fai anche un Erasmus in Spagna, subito il tuo voto finale all'insegnamento ricevuto in Italia, la qualità della nostra università. Ma su quello io, insomma, non ho avuto una grandissima esperienza, diciamo che quello che ho imparato l'ho imparato piuttosto nel mio tempo libero dell'università, quindi penso che l'insegnamento universitario possa essere utile per guadagnare un metodo, però il mondo va talmente veloce che i corsi universitari spesso purtroppo rischiano di rimanere indietro rispetto a quello che effettivamente succede nel mondo reale. Ecco Stefano, ti fai anche strada subito nell'ambiente startup italiano, arrivi anche ad avere un lavoro, di cosa ti occupavi? Lavoravo in un piccolo fondo di venture capital a Milano, quindi investivamo in startup. E a questo punto fai una scelta, all'inizio appunto di questa decade, che molti considererebbero azzardata. Ti licenzi e vai con tua moglie Elena, che tra poco appunto conosceremo meglio, a San Francisco. Perché? Cosa non andava in Italia? Stando in Italia e lavorando nel mondo delle start-up c'era veramente pochissimo in quel periodo e quindi si continuava a leggere su TechCrunch, su tutte le varie testate giornalistiche di tutte le start-up che insomma venivano lanciate in Silicon Valley, quindi insomma la voglia di andare a vedere come venivano fatte veramente dai professionisti era alta e quindi abbiamo deciso che il rischio di licenziarsi e andare a provare a trovare un lavoro lì non era così particolarmente alto e quindi l'abbiamo fatto. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente e che a volte tornano. In questa puntata parliamo della vicenda di Stefano Bernardi, trentenne venture capitalist che ha scelto di rientrare con la moglie dagli Stati Uniti in Trentino, rinunciando ad una carriera ben avviata oltreoceano. Stefano e la moglie hanno fatto questa scelta sulla base di motivi familiari. Sono loro stessi a spiegarci il perché. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Allora, la tua traiettoria lavorativa negli Stati Uniti è stata molto ricca di esperienze. Quali sono state le più importanti in estrema sintesi? La prima sicuramente è quella di entrare come primo impiegato in una startup e vederla crescere da 0 a 35 persone nel giro di 3 anni e raccogliendo 23 milioni di dollari. E poi le due mie più imprenditoriali, quindi il lancio della mia piccola società e il lancio del fondo di investimento Mission & Market. La cosa interessante è che insomma là sei arrivato senza nessun tipo di appoggio o altro e ti sei fatto strada. È effettivamente un ambiente che offre possibilità ancora oggi. Assolutamente sì, ad oggi insomma può essere forse un po' più complicato in termini di visti anche con la nuova amministrazione, semplicemente per il numero sempre maggiore di persone che vogliono trasferirsi lì, però il numero di società che assumono soprattutto chiaramente nell'ingegneria del software è sempre in costante aumento, quindi le opportunità rimangono. Tu definisci il nostro sistema startup ancora immaturo se paragonato a quello americano, e però riconosci anche che questo apre delle praterie per costruire un sistema robusto e florido di imprese innovative. Qui il problema diventa un altro e anche su questo sei critico. Chi sono i giovani che provano la strada dell'imprenditoria innovativa in Italia mediamente? Mi sembra che in Italia sia molto usato il tema startup per dire inventati un lavoro, non c'è del lavoro, fai una startup, mentre invece il concetto negli Stati Uniti, in Silicon Valley e anche in altri hub imprenditoriali è: sei il migliore del mondo a fare una cosa, invece di andare a lavorare per una società fai la tua. Quindi il concetto credo che vada spostato un po' più verso la, non la meritocrazia, però la qualità di quello che uno fa. E quindi il concetto di fare una startup è una delle cose più difficili che si possano fare, di portare un prodotto nuovo e innovativo sul mercato. E quindi non si fa perché non si riesce a trovare un altro lavoro, ma si fa perché si è veramente capaci e bravi o interessati su qualche settore e lo si porta sul mercato. Poco più di un anno fa l'altro azzardo, saluti la Silicon Valley, prendi la famiglia, torni in Italia, in Trentino. Qual è la motivazione alla base in una parola? La famiglia. Tra poco approfondiamo questo con tua moglie Elena. Prima però il tuo bilancio, ne è valsa la pena tornare? Ma insomma siamo tornati da poco, quindi per ora siamo molto contenti, però insomma siamo proni a questo tipo di decisioni azzardate, quindi ancora non lo so. E anche qui, in una parola, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Confusi, nel senso che ancora sono in fase decisionale, però probabilmente sempre sul lato investimenti in startup. L'Italia può essere salvata dai suoi talenti di rientro, Stefano, e se sì come? Sicuramente, insomma, secondo me la cultura lavorativa che si vede all'estero, anche insomma in paesi europei, quindi più vicini, è sicuramente molto utile all'Italia e sono tanti talenti italiani che all'estero fanno veramente molto bene. Secondo me pian piano riscopriranno quello che di buono c'è in Italia e con un con un pizzico di rischio a tornare possono dare veramente una bella mano. Allora, torniamo a collegarci con Elena Petrucciano, moglie di Stefano. Buon pomeriggio, Elena. Ciao, buon pomeriggio. Partiamo dall'inizio. Anche tu avevi un lavoro come Stefano a San Francisco. Qual era il tuo progetto? Dunque, io avevo creato una società, facevamo una piattaforma per gestire e customizzare i benefit nelle aziende, in particolare nelle start-up. È interessante notare come i motivi preponderanti del vostro rientro siano stati due. Il più importante è stato quello familiare. E allora ti chiedo, perché lo avete considerato prioritario? Perché avete scelto proprio l'Italia e il Trentino e non magari un altro posto in Europa? Beh, sicuramente per dare l'opportunità al nostro figlio e quello in arrivo di crescere, di avere le stesse nostre radici, la famiglia vicino e la nostra cultura, ecco. E in particolare abbiamo scelto invece il Trentino e non Roma, perché ci sembrava una regione un pochino più efficiente e con servizi, ecco, più adatti anche alle esigenze delle famiglie. L'Europa ci mancava, hai scritto. Cos'ha l'Europa che manca invece negli Stati Uniti? Sicuramente la differenza culturale che c'è tra paese e paese in termini di lingua, tradizione, cultura, è tutto a un'ora d'aereo a prezzi super ragionevoli. Attualmente di cosa invece ti occupi tu? Attualmente sto seguendo con un'altra ragazza un progetto sulla didattica interattiva per bambini, quindi basata sull'approccio hands-on e l'esperienza di gioco per imparare. Tempo di bilanci, partiamo da quello professionale. Hai trovato un paese vivace, vivo al tuo rientro, un paese attrattivo? L'ho trovato un paese abbastanza vivace, vivo sotto diversi punti di vista, soprattutto quelli legati alla sostenibilità ambientale, cercare di rinnovarsi, rigenerarsi. Dal punto di vista attrazioni e talenti invece forse ancora siamo un po' indietro, ancora manca qualcosa in alcuni settori, ecco. E soprattutto il bilancio familiare, l'Italia si è dimostrata all'altezza delle vostre aspettative? Sì, da quel punto di vista assolutamente sì, la scelta era giusta e non tutte le premesse che avevamo fatto sono quelle, erano, sono validate, ecco. Grazie Elena Petrucciano. Prego. E soprattutto in bocca al lupo. E domanda di rito per Stefano Bernardi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Quello di provarci, di partire, di farsi la sua esperienza all'estero, di lavorare per persone molto più brave di lui e poi di riportare tutto indietro. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Facciamo ritorno in Cina per i nostri consueti consigli mensili su come sfruttare al meglio le opportunità di carriera in Estremo Oriente. Lo facciamo, come sempre, con l'Ideogramma, rubrica a cura di Emanuela Verrecchia. Oggi Emanuela ci introduce al mondo delle opportunità professionali nel settore medico. In questa puntata dell'Ideogramma parleremo di opportunità di lavoro in Cina per medici giovani e meno giovani. Non solo in Cina, ma in tutta l'Asia, medici stranieri, anche generici, sono molto ricercati e anche ben pagati. Se un giovane medico ospedaliero in Italia guadagna poco più di 1.500 euro al mese, in Cina arriva anche a guadagnarne 10.000. Racconta Francesco Lavarra, un cardiochirurgo di 48 anni che due anni fa ha lasciato Milano e si è portato in Cina una piccola equipe di giovani medici. Che cosa fa un medico italiano in Cina? Fa il medico e fa anche e soprattutto didattica. Come abbiamo più volte detto nel corso di questa rubrica, oggi la Cina è sì ancora pronta ad accogliere talenti stranieri, ma a condizione che portino ai cinesi quella conoscenza e quelle capacità che i cinesi ancora non hanno acquisito. Il dottor Lavarra nel quotidiano applica stent a pazienti infartati e contemporaneamente insegna le tecniche di microchirurgia ai colleghi cinesi. In meno di una settimana dal primo colloquio ha ricevuto un'offerta come responsabile del reparto di cardiologia interventistica dell'adulto e co-direttore del reparto di cardiologia di una clinica privata convenzionata di Changchun, una grande città nella Cina di frontiera, un'ora e mezza di volo da Pechino, inquinatissima. In Italia questa opportunità sarebbe stata impensabile ed è proprio questo che ha spinto il dottor Lavarra a emigrare all'estero, dove c'è maggiore meritocrazia. Consigli pratici per chi voglia seguire questa strada. Fate semplicemente una ricerca libera su Google con parole chiave come Job Medical Doctors China. Troverete molti siti di cacciatori di teste specializzate nel settore medico. Se volete venire a lavorare in Cina,